Русская Катюшка Полюшка, эй, эй, Никита Спутника не дал, не дал. Колыл, колба, колцоня ламучит, arriva Nikita da lontan pilotando lo Sputnik. Non sarà chic, ma ti fa venir lo shock quando senza dire manco niente metti in orbita un Unic. Non beve mai whisky, non brinda champagne, se trinca la vodka lui diviene un po' villain. Io caro Mike, se vuoi evitare guai dai renta a me non fare lo show, a Nikita insegna un rock. Hai, se vuoi evitare guai, dai renda meno.